È evidente che i risultati delle amministrative per il Partito Democratico non hanno rappresentato un risultato positivo. Di questo chiaramente nessuno può non dolersi all'interno del Partito Democratico, contemporaneamente nessuno può fare finta di niente. C'è una situazione oggi di scarso appeal del nostro progetto politico rispetto agli elettori e c'è, a mio giudizio, la necessità di rifare il punto su qual è la nostra proposta, su quali gambe noi diamo a una proposta politica, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche. Oggi il Partito Democratico si crogiuola in un beato isolamento, in un'idea di autosufficienza che non potrà che portare a livello nazionale, con l'attuale legge elettorale, a una prospettiva di larghe intese con il centrodestra. È chiaro che nelle amministrative noi abbiamo messo in campo proposte politiche anche differenti fra di loro, che hanno compreso anche ampie coalizioni di centro-sinistra, ma è evidente che la credibilità complessiva della nostra proposta si gioca su qual è il progetto, un progetto di ampio respiro che PD offre al Paese. In mancanza di questo, anche le alchimie, le proposte politiche, le soluzioni che si cerca di mettere in campo a livello locale rischiano di non essere ben accolte, di non essere considerate credibili. Ieri il ministro Orlando, che è la figura, diciamo, dell'area a cui fai riferimento, ha evocato subito un'alleanza, un dialogo con la sinistra, in particolare insomma Pisapia, ma non solo. Però insomma, dai risultati emerge che più che una vittoria della destra è stata una vittoria dell'astensione. Secondo te, come dire, un'alleanza a sinistra può aiutare a recuperare quegli elettori che sono andati persi? Allora, se mettiamo attorno a un tavolo una serie di figurine, diciamo, che abbiamo costruito una coalizione, questo non smuoverà certo le masse da quella disaffezione nei confronti della politica che hanno sin qui dimostrato. Se noi riusciamo a rimettere in moto, insieme a Pisapia, insieme ad altri, ma non certo solo a leader di forze politiche, ma anche a quei soggetti sociali rispetto a cui oggi noi abbiamo lasciato cadere un rapporto proficuo, positivo, consolidato, antico, bene, allora tutto questo può fare quel che di cui il nostro paese ha bisogno, cioè rimettere in moto un percorso di entusiasmo, di partecipazione, di fiducia nella politica, in una proposta politica che quella sì può essere un buon antidoto all'astensione. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di rianimare il nostro popolo, di riattivare il nostro popolo intorno a un progetto, un'idea che sia credibile, che sappia parlare alle istanze e alle esigenze degli italiani, che sappia smarcarci da un'immagine un po' arrogante che il Partito Democratico ha coltivato in questi anni, e sappia parlare al Paese un linguaggio di innovazione, perché è di questo che c'è bisogno. Pensi che serva anche discontinuità su alcuni temi? Ma assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo pagato in termini negativi sicuramente un problema di metodo, un problema di stile, una modalità di relazione con l'elettorato. Quella immagine un po' guascone, un po' bulletta che aveva Renzi all'inizio e che è stata molto efficace perché ha segnato un elemento di rottura rispetto a vecchie alchimie della politica, ai rituali del passato, anche a una generazione precedente. Poteva funzionare come rompighiaccio, ma non è certo uno strumento che può servire a consolidare un blocco sociale attorno a una proposta politica. Ma è evidente che non si tratta solo di stile, non si tratta solo di metodo, si tratta anche di rimettere a fuoco alcune priorità, alcune centralità che noi abbiamo abbandonato, a partire da uno, che è quello di una lotta alle diseguaglianze, una lotta alla povertà, di una attenzione forte a quei ceti di poveri che sono fuori sono al di sotto della soglia della povertà nel nostro paese, e a quei nuovi poveri, a quegli impoveriti dalla crisi, che sono quelle frange dei ceti medi che si aspettano oggi da noi un'attenzione rispetto a delle emergenze sociali a cui non sappiamo guardare. Non è con il mantra di ridurre le tasse a tutti, di ridurre le tasse sulla prima casa a tutti, di dare bonus bonus uguali per tutti, che noi riusciremo ad aggredire questo tema. E se noi non aggrediamo questo tema, non svolgiamo la funzione di una sinistra, per quanto moderna, per quanto ampia, per quanto laica del XXI secolo, che è quella soprattutto di correggere le storture del mercato del lavoro, delle logiche del capitale, aiutando chi non ce la fa a rimanere comunque protagonista della propria vita, protagonista di un contesto sociale di cittadinanza piena.